Buonasera, sono Livia Napolitano e questa è Radio Libriamoci Web. Notte tempo 7 minutes, la nostra pillola musicale. Questa sera vi porta in Francia, a Tolosa, per farvi scoprire la musica libera, indipendente dei proletari. State ascoltando il loro swing I Don't Mean a Thing, un omaggio alla grande Ella Fitzgerald. Che ricorda la vecchia scuola funk, soul, jazz, con beat più moderni e l'essenza dei proletari. Nel salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, vi lascio all'ascolto di un altro loro brano tratto dall'ultimo LP, Fighting the Lions, e il titolo del pezzo che andremo ad ascoltare è Sometimes.